dopo Testo Tossico che è andato in scena a gennaio c'è uno sviluppo. Federica Rosellini e Francesca Manieri di nuovo insieme. Ciao intanto, ben ritrovate. Ciao, grazie a voi. Questa volta alle Carrozzerie Not. Allora, parlateci di questo nuovo progetto. Allora, guarda, questo nuovo progetto si intitola King Kong Girl ed è praticamente per noi idealmente il secondo capitolo, come dicevi, rispetto a Testo Tossico. Scusate se sentite dei rumori dietro, ma siamo in prova e quindi si sentono un po' di voci da dietro. E niente, quindi per noi è il secondo capitolo idealmente rispetto a Testo Tossico ed è dedicato a Virginie Despentes, all'opera, insomma, e alla figura di Virginie Despentes, che era una coprotagonista in qualche modo di Testo Tossico, era la V di Testo Tossico e quindi praticamente, insomma, è una specie di spin-off il secondo capitolo ed è dedicato a, insomma, se il primo capitolo era sulla female masculinity, il secondo è sul femme, e quindi sulla female femme. Ok. E questo è in realtà, ecco, se il primo, appunto, se Testo Tossico era un monologo pensato per una voce sola, invece questo secondo progetto è pensato per quattro attrici e quindi, insomma, per una pluralità, per un femminile plurale, ecco, okay, in qualche modo. Il testo di partenza è sempre Testo Tossico o altra bibliografia? No, noi siamo partite da King Kong Girl, che è un, okay, strano saggio, diciamo, tra autofiction e saggio di Virginie. Ma abbiamo scritto un testo, questa volta abbiamo scritto un testo originale che facesse sicuramente dialogare alcuni degli elementi della poetica di Virginie e di quella di Paul di Preciado, però no, abbiamo lavorato questa volta su un testo originale che abbiamo scritto insieme a quattro mani. Ok. Quali sono le caratteristiche di questo femminile? Le caratteristiche di questo femminile sono un po' complesse. Sicuramente lo spettacolo indaga il rapporto tra la femminilità e la sua, e il rimosso, okay, del femminile, e quindi la sua bestialità rimossa, e abbiamo in scena questa King Kong femmina insieme al suo corrispettivo, che è la bionda, diciamo, e quindi partiamo da ci sono varie figure, sono una specie di caleidoscopio di figure femminili e partono appunto dalla scrittrice, da Virginie, per arrivare alle icone protagoniste del film, appunto King Kong, sono questa nuova Jessica Lange e questa King Kong femmina, che dialogano in questa storia d'amore irrisolta, irrisolvibile, che è appunto la proiezione del femminile col suo desiderio. È uno spettacolo che indaga anche il limite estremo della cultura patriarcale in cui viviamo, cioè lo stupro e la fantasia dello stupro, quello con cui le donne hanno chiaramente meno dimestichezza e che pure sottende il nostro tessuto socioculturale, quindi questo è l'orizzonte dentro cui cerca di muoversi questo spettacolo. Senti, il rimosso è tutto culturale? Niente è mai soltanto culturale, no? Certo. E proprio questo è uno degli altri elementi, chiaramente, okay, quando metti in scena uno scimpanzé e il suo corrispettivo amoroso umano, stai ovviamente lavorando sempre dentro la parodia del paradigma natura-cultura, sì, che è un altro degli elementi dentro cui in assoluto tutti ci muoviamo, e il femminile in quanto performance coatta in maniera ipertrofica, diciamo. Senti, lo scimmiesco femminile in verso che direzione va? Che cosa esprime? Che cosa esprime lo scimmiesco femminile? Esprime sia una violenza, okay, che non viene riconosciuta al femminile, sia appunto un orizzonte di pulsioni complesse con le quali familiarizzare. Sostanzialmente questo esprime. Ok, e c'è anche, visto insomma questa sottesa violenza, questa carica, questa energia ha delle possibilità di essere incanalata in qualcosa di costruttivo? Di costruttivo o di decostruttivo? Non ho capito. Di costruttivo. Costruttivo. Decostruttivo è facilissimo. Il decostruttivo è sempre piuttosto più semplice. Guarda, questo testo per noi è un grande interrogativo. Ok. Lanciato sulla necessità in questo momento storico in particolare di rilavorare sul femminile. Perché nel momento, se diciamo testo tossico lavora in un orizzonte che è, diciamo così, per capirci, post gender, sì, questo testo qui invece fissa l'attenzione sulla donna, sul femminile come costruzione culturale ma anche come stato, diciamo, e impone un interrogativo ancora sull'essere donna. E in questo senso, se vuoi, è un passo indietro rispetto al post gender di testo tossico, e per questo è un passo avanti, secondo me, politicamente, questo spettacolo qua. Ok, ok. Senti Francesca, andrà in scena quanti giorni e in che forma? È ancora uno studio o uno spettacolo compiuto? Questo te lo dice Federica, che okay, con compiutezza si intende sempre più di me. Eccoci. Allora, lo spettacolo andrà in scena 3 giorni a Carlo Spazio di Carrozzeria Notta. Che ringraziamo moltissimo, insomma, per la fiducia in questo progetto. I giorni saranno il 6, 7 e l'8 aprile, okay, quindi i prossimi giovedì, venerdì e sabato. No, lo spettacolo è uno spettacolo compiuto. È la sua prima assoluta. È la sua prima assoluta, quindi okay, chiaramente. Okay. Però finalmente anche, appunto, come dicevamo prima, un secondo capitolo, cioè anche registicamente il lavoro fatto è stato un lavoro che lo rende autonomo, chiaramente, però che permette a chi, per esempio, è venuto a vedere testo tossico, insomma, o ci ha seguito in primo capitolo, di riconoscere delle affinità e delle differenze, insomma, cioè un lavoro che realisticamente segue una linea, un filo, e lo varia in qualche modo, ecco. Quindi sì, autonomo ma anche conseguente. Okay. E chiude uno studio su un autore, autrice, oppure è un secondo capitolo di qualcosa che si svilupperà? Questo non te lo so dire. Potrebbero anche rimanere loro due. Okay. E in realtà all'interno di un percorso più ampio, compagnia. Vi sento che state andando via. Pronto, pronto? Pronto, pronto. Ecco, ti ha recuperato. Sì, eccoci. Ok. Dicevo, rientra in un discorso più ampio di politica di compagnia. Un terzo capitolo, che stiamo indagando in questo periodo, in questo momento, quindi sì, potrebbe essere, adesso non te lo dire ancora. Va bene, va bene. Allora, intanto i riferimenti ce li avete dati, per quanto riguarda la compagnia, spazio, un sito internet, pagina Facebook? Allora, c'è una che è Ariel Dei Merli, è il nome della compagnia. Ariel Dei Merli, ok, perché Ariel Dei Merli, ti esatto, stiamo riperdendo, ok. Esatto, Ariel Dei Merli, che è il nome della compagnia. E quindi queste attrici, possiamo ricordare, siamo ancora le attrici che lavorano con noi? Certo. Ok, allora che sono? Cerco di andare in ordine alfabetico. Elvira Berarducci, Dacia da Cunto, Barbara Mattavelli e Ilaria Matilde Vigna. Benissimo. Che ringraziamo per il loro lavoro. Allora, un abbraccio a voi due, ci vediamo a Carrozzeria Not. Grazie Federico, grazie. Andate sempre tutti a Carrozzeria. Ci vediamo, voi andateci lo stesso, che vale la pena. Ciao. Ciao Federico, ciao, ciao. Grazie. Ciao.